E buongiorno e bentornati a tutti i radioascoltatori qui negli studi di Radio Città Fujiko. Io sono Marco Segato per ReArt, Artisti Uniti per la Pace, contro il riarmo e contro la guerra. Sono qui con un altro dei grandiosi artisti che ha scelto di partecipare quest'oggi direttamente dalla Germania. Dario M, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, grazie Marco, grazie che mi hai invitato anche qui, grazie. Grandissimo piacere averti qui. Proprio partendo da questa domanda del direttamente dalla Germania, ti domando un po' com'è il tuo percorso, come anche sei arrivato qui, come ti sei approcciato alla musica e cosa ti ha portato poi a scegliere di essere qui in questo momento. Per me è stato sempre una cosa speciale di fare canzoni che si tratta della guerra, si tratta della pace. Per me è importantissimo perché succede troppe cose nel mondo, e quando ho visto proprio che Radio Fujiko fa proprio questo, ho detto ora io ci provo e domando se voi forse avete interesse, quella canzone passerà e ora stiamo qui per parlarci. Ti volevo chiedere cosa ti ha portato a fare musica, a sentirne proprio il bisogno, e anche l'ottica di questo ti domando quali sono state le tue ispirazioni nella creazione di questo pezzo a livello musicale. L'ispirazione lo conoscete sicuramente, Michael Jackson, Heal the World, We Are the World, e va più di questa parte che a me mi è interessato sempre, anche già da bambino, negli anni 90, quando sentivo all'epoca Michael Jackson. Per me è stato sempre un mito, e anche i messaggi che lui portava erano importantissimi, e lui mi ha dato l'ispirazione. Ho detto forse sarebbe anche bello di fare testo una canzone così. Poi sinceramente il testo io l'ho scritto, diciamo, 14 anni fa l'avevo scritto, perciò se uno ora ci pensa che è ancora attuale, cosa è impressionante. Pure un pezzo che ritorna al passato perché sentivi il bisogno di esprimerlo, di raccontarcelo. Proprio per questo ti domando, allora 14 anni fa come è nato, e anche poi che cosa ti ha spinto a riprenderlo in questo modo? Io l'avevo scritto all'epoca perché forse voi lo conoscete, quando avete una cosa da esprimere, e io l'ho scritto, sinceramente non c'è neanche un punto che io dico forse c'era quella guerra o c'era una cosa del genere, me la sentivo solo. E poi ho visto che c'era anche un amico mio, tanti saluti anche a Carlo, che lui ha fatto la base, e lui mi ha detto sarebbe bella fare una cosa del genere con un po' di pace, un po' di guerra. E purtroppo ci sono tanta gente che muoiono, e muoiono di fame pure, che mi dispiace molto. E ho detto allora mi sa che è veramente il momento giusto di uscirla. A volte ritornano perché c'era il bisogno di mandare un messaggio. Proprio nell'ottica di messaggio, la canzone ha un titolo, Non passerà, che ricorda tantissimo il motto, il mantra No pasarán, sì, tipico degli spagnoli, ma ormai di tutti quelli che partecipano alla lotta. E allo stesso modo, sì, all'interno ci sono anche delle parole di Papa Francesco. Ci spieghi un po' il messaggio di questa canzone e come si configura anche a questi due riferimenti? L'idea del Papa Francesco, che purtroppo buon'anima che è morto, l'ha avuto Carlo, produttore della base, e lui mi ha detto sarebbe bello combinarlo e mettere la detta di Papa Francesco abbinato proprio alle guerre e alla pace che ci serve nel mondo. Io ho detto sinceramente è una cosa bellissima, perché ora che è morto poco fa, diciamo, abbinarlo è veramente una cosa speciale, che fa la canzone molto speciale. Io sono sempre commosso quando l'ascolto, no, perché la canzone è mia, diciamo, le parole. Forse uno lo conosce pure, che quando uno scrive un testo, da quando uno fa strumentale, è proprio l'anima che scrive, il cuore e l'anima, non è la persona stessa. E per me era veramente emozionante quando io ho scritto il testo e l'avevo finito, che ancora non l'avevo capito e realizzato, la guerra che esiste ancora, proprio l'ipocrisia che esiste nel mondo, e tutta questa roba ancora non ha finito, e sono passati anni e anni e anni, e non passerà mai, diciamo, proprio alla detta, non passerà mai. Per me lo scopo è di unire la gente, e proprio mano in mano, e a stare vicino e a dire stop alla guerra e tutto quello che c'è. Stiamo vicini, tutti vicini, in pace. Che è veramente un ottimo messaggio, ed è quello che portiamo avanti anche sempre noi di Radio Città Fujiko con ReArt. Quindi sempre nell'ottica dei messaggi, qua in chiusura ti chiedo di mandare tu un messaggio, fare un appello a tutti gli ascoltatori che in questo momento ci stanno ascoltando. Per favore cercate di unire la gente, è uguale qual è il colore di pelle, religione, è uguale cosa si tratta, la guerra non ci serve nel mondo. State tutti vicini, datevi la mano e cercate di essere una famiglia. Dobbiamo stare bene tutti uniti, anche nell'ottica di proteggerci, difenderci a vicenda, fare fronte comune indipendentemente da quello in cui crediamo, perché dobbiamo credere in un'unica cosa, ovvero l'umanità, il benessere delle persone. Giusto. È stato davvero bellissimo chiacchierare con te, Dario, grazie mille, sono davvero contento, Marco, che tu abbia partecipato. Grazie, anche grazie che potevo partecipare, che avete l'interesse della canzone, che avete detto è veramente molto speciale, che ci sta proprio a programma vostro. Per questo grazie, veramente grazie mille. E grazie a te, sono sicuro che la canzone piacerà anche a tutti i nostri ascoltatori, e infatti adesso la stiamo per sentire. Questo è Dario M con Non passerà. Un'ora buia, questa non la voglia, madre. E ripudiare la follia della guerra che semina morte e cancella il futuro. Mi manca la pace nel mondo. Non la voglia, questa non la voglia. L'ipocrisia. L'ipocrisia. È l'ipocrisia. L'ipocrisia. È l'ipocrisia. Nel mondo c'è malinconia, nella vita non mancherà mai la follia. La follia. Viviamo in una bugia perché nel mondo c'è molta ipocrisia. Nel mondo c'è un po' di pazzia, tutto nella vita è una filosofia. Perché viviamo in un mondo di bugia. Ehi, ascoltate il mio statement. Sta domanda è una domanda. Domando. In cui la gente mi chiedono: sei matto? Non perdono tempo, non si prendono tempo. Ignorano il male perché vanno contro vento. Io mi faccio dei pensieri, prendo carta penna e scrivo i miei desideri. Mi manca la pace nel mondo. Dio ci aiuta, io ci rispondo. Voglio solo vivere, vivere, vivere. Solamente vivere, vivere. Perché la certezza e l'amore che sta dentro nel cuore si incomincia piano piano a dividere. E non è strana la vita? Sì, sì. Prima è fiorita e poi è fallita. La falsità non cambierà mai, mai, mai. Il male non passerà mai. Nel mondo c'è malinconia, nella vita non mancherà mai la follia. La follia. Viviamo in una bugia perché nel mondo c'è molta ipocrisia. Nel mondo c'è un po' di pazzia, tutto nella vita è una filosofia. Perché viviamo in un mondo di bugia con tanta ipocrisia. Tanta ipocrisia. È vero. Sono Big Dario M. Spero che le stronzate che sente al giorno nel mondo che vanno via a ritorno. A ritorno. Voglio scappare molto lontano, via dal mondo metropolitano. Ci sono bestie, paure, figure, creature, altre sfumature. Voglio solo vivere. Solamente vivere. Perché il labirinto è dipinto, sbagliato e finto. Senza aiuto non lo puoi descrivere. Ma non è strana la vita. La vita, la vita. Prima dolce vita e poi è finita. La falsità non cambierà mai. Il male non passerà mai. Nel mondo c'è malinconia, nella vita non mancherà mai la follia. La follia. Viviamo in una bugia perché nel mondo c'è molta ipocrisia. Nel mondo c'è un po' di pazzia, tutto nella vita è una filosofia. Perché viviamo in un mondo di bugia con tanta ipocrisia. Datemi la mano per il momento che viviamo. Nel mondo c'è malinconia, nella vita non mancherà mai la follia. La follia. Viviamo in una bugia perché nel mondo c'è molta ipocrisia. Nel mondo c'è un po' di pazzia, tutto nella vita è una filosofia. Perché viviamo in un mondo di bugia con tanta ipocrisia.